voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. You figured, oh, here's a loser, you know, a deadbeat, somebody the square community won't give a shit about. Well, aren't ya? Well, yeah. Thank you. sicuramente è arrivato il momento di fare un veloce riassunto di quanto ascoltato, in quanto è un po' di tempo, sono un po' di brani che non intervengo più per darvi qualche piccola informazione. Per esempio, la prima parte di Eclettica si è chiusa con due brani in sequenza. Il primo, che vede assieme l'artista hip hop di pelle bianca che usa lo pseudonimo LP, con i Mars Volta, è uno dei tanti duetti che costellano il suo nuovo album. Avete già sentito all'interno di Eclettica quello con Cat Power, quello con Trent Reznor, ma dal numero di passaggi di quello con Mars Volta probabilmente avete anche intuito qual è quello che preferisco. Poi, per chiudere la prima parte, gli aretini De Gumo con il pezzo dal titolo Life. Seconda parte che si è aperta invece con i New Yorkesi Atlas, che prosegue con i giapponesi Ghost, band giapponese che nel 2007 è andata a riprendere un brano di fine anni 60 dei Cro-Magnon, in cui già nella versione originale campeggiavano le cornamuse, campeggiano anche in questa cover, Caledonia. Gli ho detto che sarei andata a una festa di Capodanno. Gliel'ho detto a ottobre. Non so se la gente manda gli inviti per le feste di Capodanno a ottobre oppure no. Probabilmente no. Come facevo a saperlo? Non ci andavo più dal 1984. L'avevano data June e Brian, della casa di fronte, appena prima di traslocare, e anche quella volta ci avevo fatto giusto una capatina di un'ora, dopo che lui era andato a letto. Però non ce la facevo più ad aspettare, ci pensavo da maggio o giugno, e friggevo dalla voglia di dirglielo. Che stupida davvero. Lui non capisce, sono sicura. Mi dicono di continuare a parlargli, ma si vede che non gli entra dentro niente. E comunque, friggere per una cosa del genere, beh... Questo vi dice che non avevo altro da aspettare con ansia, vi pare? Questo era ancora l'incipit di Non buttiamoci giù, di Nick Hornby. È stato sicuramente un bel esordio quest'anno, quello degli inglesi Ralphie Band appena ascoltati. Il genere, ho visto, è stato anche definito psycho folk waltz. C'è da divertirsi nel leggere e nel cercare di interpretare le etichette che vengono applicate alla musica. Chi ascolta Eclettica ha la possibilità di farsi un giudizio per conto proprio ascoltandola, la musica, come Albatross Waltz, il brano appena passato. Invece ora è la volta degli svedesi Cat City, che da un po' di tempo ci stiamo ascoltando con queste loro atmosfere musicali così... anni 80. Pornography è il titolo del pezzo che vi faccio ascoltare di solito, e anche oggi mi confermo con questo brano per la formazione che è un trio quando sono in studio ed è un sestetto quando sono dal vivo. Theodore Donald Karavatsos, in accordance with what we think your dying wishes might well have been, we commit your final mortal remains to the bosom of the Pacific Ocean, which you loved so well. Nel momento che gliel'ho detto, mi è venuto da andare a confessarmi subito. Insomma, avevo detto il falso, vi pare? Avevo detto una bugia a mio figlio. Oh, era solo una bugietta sciocca. Gli avevo detto con dei mesi di anticipo che sarei andata a una festa inventata da me, e anche inventata come si deve. Gli ho detto chi dava quella festa, e perché mi avevano invitata, e perché volevo andarci, e chi erano gli altri invitati. Era la festa di Bridget, la Bridget della chiesa, e io ero stata invitata perché veniva sua sorella da Cork, e sua sorella, in un paio di lettere, aveva chiesto di me. Ci volevo andare perché la sorella di Bridget aveva portato sua suocera Lourdes e mi interessava farmi dare tutte le informazioni, pensando di portarci un giorno matti. Però confessarsi era impossibile, perché sapevo che prima della fine dell'anno avrei dovuto ripetere il peccato, la bugia, ancora tante volte. Non soltanto con Matti, ma anche col personale della casa di cura e, insomma, poi non c'è nessun altro. Forse qualcuno della chiesa o qualcuno in un negozio. A pensarci fa quasi ridere. Se passi giorno e notte a badare a un figlio che sta male, spazio per i peccati te ne resta pochissimo. E non avevo fatto niente che valeva la pena di confessare da non so quanto. E poi, di colpo, sono passata a peccare così malamente che non potevo neanche parlarne con il prete, perché avrei continuato a far peccato fino all'ora della mia morte, quando avrei commesso il peccato più grave di tutti. Questo era ancora l'incipit di Non buttiamoci giù, di Nick Hornby. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 33, volume numero 5. Indice, At Swim to Birds, The Ponies, The Young Gods, LP con i Mars Volta, The Gummo, Battles, Ghost, Ralphie Band, Cat City, Velvet Score.